Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Oggi si vuole tutto e subito. Non c'è più tempo per dare fiducia a progetti sperimentali e di lungo respiro. O dai subito risultati, o sei fuori. Nello sport, come nell'economia e nel mondo professionale. Spero tanto che tra le cose buone che porterà questa crisi ci sia anche un ritorno alle fondamenta per costruire non il tutto e subito, ma per costruire cose solide, con pazienza. Giacomo. Per dimezzare la fame nel mondo, nessuno annuncia l'unica ricetta possibile: pianificazione delle nascite e dimezzamento della popolazione mondiale. In poco più di un secolo l'umanità è passata da 1 miliardo a 6 miliardi di popolazione, con enormi devastazioni ambientali e crisi energetica. C'è una differenza notevole tra densità e sovrappopolazione. Noi in Occidente siamo sovraffollati, di là sono sovrappopolati. Che senso ha mettere al mondo un figlio se poi deve morire di fame? Sarà tutto da dimostrare, però se non si inizia, non si saprà mai se funziona o meno. Poi il Vaticano ci parla di maternità e paternità responsabile, ma secondo voi la madre di un bambino di Nairobi morto di fame, quanto aveva realmente scelto di avere quel terzo o quarto o quinto figlio? Il Vaticano ostacola da sempre i programmi ONU per il controllo delle nascite. Sono loro i principali artefici e colpevoli di questa tragedia. Marco Pescara. L'indice di natalità è inversamente proporzionale allo sviluppo economico di un paese. La soluzione per il controllo delle nascite è lo sviluppo economico. Carlo. Mi rivolgo al ministro Brunetta, in relazione alle sue promesse sul pubblico impiego e sul recupero dell'efficienza. Se in campagna elettorale anche il PDL annunciò l'eliminazione delle province, perché continuano a comparire concorsi pubblici per questo tipo di enti? Qualcuno dirà che finché esistono, devono pur funzionare. Bene, ma allora mi chiedo perché, invece di fare concorsi per nuove assunzioni, non si ricorra alla mobilità, prevista nei contratti nazionali del lavoro, per il personale eccedente in altre amministrazioni. Forse perché le nuove assunzioni pagano elettoralmente, mentre la mobilità scontenterebbe, mettendo a lavorare qualche fannullone? E lei, ministro, da che parte sta? Fiorella Pontedera. Gentile Radio 24. Si continua a parlare di abolizione delle province, perché ritenute inutili e simbolo degli sprechi italici. Io sono dell'opinione che gli unici enti inutili siano le regioni. In fin dei conti, le regioni si occupano quasi unicamente di sanità, che dovrebbe essere una competenza nazionale, e sono distanti dai cittadini esattamente quanto le istituzioni nazionali a Roma. Le province, quelle storiche, evitiamo di parlare delle 25 costituende, hanno invece la giusta vicinanza al cittadino e hanno una forte valenza identitaria. Ognuno di noi si definisce milanese, romano o napoletano, non certo lombardo, laziale o campano. La dimensione regionale è assolutamente artificiale, non trova alcuna giustificazione. Porta invece seri problemi di vigilanza sulle istituzioni. Andando ad analizzare la copertura geografica dei mezzi di informazione locali, si può facilmente notare come questi abbiano in massima parte una dimensione provinciale. Ciò pone l'istituzione regionale sostanzialmente in un cono d'ombra informativo che poco si addice a uno Stato democratico. A pensar male, si potrebbe affermare che questo sia proprio l'effetto desiderato dalla casta politica che ci governa. Luca. Il nostro premier ha dichiarato: assurdo parlare di emissioni quando c'è una crisi in atto. È come uno che ha la polmonite e pensa di farsi la messa in piega. Non entro nel merito del pacchetto ambiente. Voglio sperare che i nostri politici sappiano ciò che stanno facendo. Mi riferisco all'improprio paragone con la messa in piega. La messa in piega è un artificio estetico che serve per apparire gradevoli agli occhi degli altri. Così, per similitudine, fa apparire la questione ambientale come qualcosa che, tutto sommato, non è così fondamentale considerare per sopravvivere. Peccato, perché certe decisioni, quella del veto, possono avere anche un potenziale fondo di bontà vista la crisi, ma vengono vanificate dalla voglia di farsi capire per forza, con il risultato di trasmettere il messaggio opposto a quello originario. Francesco. Non capisco perché si continui a parlare di radio digitale. Sarebbe sufficiente aumentare la banda dello streaming via internet In breve tempo, le tecnologie UMTS o WiMAX renderanno la rete disponibile ovunque. Tenendo presente che una qualità eccellente consuma una frazione della banda disponibile dai dispositivi di connessione portatile, mi pare chiaro che sarà la rete a trasmettere la radio digitale ad alta qualità. Contrariamente, ogni standard che vuole allontanarsi dalla centralità della rete WWW morirà non appena la rete sarà disponibile in ogni dispositivo portatile. E prendiamo quanto sta accadendo negli States. Tutte le più importanti radio hanno un'applicazione per la piattaforma portatile di Apple che permette di ascoltare la radio in alta qualità su iPod Touch e iPhone. Non capisco perché si dovrebbe comprare un apparecchio che non è in grado di collegarsi alla rete quando finalmente da qualche anno è iniziata l'era digitale. Si parlava sempre di convergenza, ma finalmente ci siamo arrivati. Poco di quello che è prodotto dall'uomo non è digitale. I giornali stessi, che tanto sembrano essere immuni dalla tecnologia digitale, in quanto fatti di carta, in realtà sono costituiti da byte. Nulla di quanto viene stampato sulla carta è immune dalla rete. Tutto viene prodotto in rete e con l'ausilio della rete. I libri? Pensate che vengano scritti a macchina? O che l'autore presenti il proprio lavoro in carta all'editore? No, tutto passa dalla rete. Ogni cosa viene creata in rete. Nulla più sfugge alla rete. E allora, perché dovrebbe sfuggire la radio? Emiliano. Ho sentito un vostro ascoltatore napoletano che aveva manifestato l'intenzione di denunciare Bertolaso. Spero che il giudice a cui perverrà tale denuncia ne senta tutto l'obbrobrio e l'infondatezza. Chi è questo coraggioso cittadino italiano che, anziché denunciare la delinquenza e la camorra, denuncia chi fa il bene? Non è forse arrivato il tempo che gli umili e gli onesti comincino a ribellarsi verso i demoni che infestano questa terra e che si appropriano dei diritti per coprire la loro prepotenza? Giorgio. Egregio direttore, da parecchio tempo mi chiedo se una democrazia così come la viviamo in questa povera Italia disastrata abbia ancora un senso. I politici continuano a litigare su tutto, la magistratura non vuole alcun controllo, molti rubano a man bassa dove possono e quando possono, la delinquenza prospera e i furbi ingrassano a spese degli onesti. Nonostante la crisi economica, il più grosso sindacato proclama lo sciopero generale. Non ci sono più valori morali ormai passati di moda e tralascio il resto. Insomma, siamo al tutti contro tutti, cercando affannosamente di sopravvivere il meglio che si può. A me tutto questo sa di anarchia, altro che democrazia. Qual è la soluzione? Le dittature di vario genere, visti i danni che hanno fatto, lasciamole perdere. Fabio. Sono un vigile del fuoco discontinuo e presto servizio presso il comando di Foggia. Noi, vigili del fuoco discontinui o precari, denunciamo ancora una volta l'indifferenza da parte dello Stato, che invoca continuamente il nostro aiuto, perché, vista la carenza del personale permanente, la nostra presenza è diventata determinante per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Oggi noi precari contiamo circa 6.000 unità su tutto il territorio italiano e abbiamo ottenuto solo pochissimi posti disponibili per la stabilizzazione, 1.135 unità su 6.080, mentre ci utilizzano ancora a gettoni. Con quello che costiamo allo Stato, si potrebbero assumere circa 2.500 vigili permanenti. Ormai noi precari copriamo il 20% del servizio e con richiami da 20 giorni alla volta veniamo di fatto impiegati per il servizio ordinario, quando invece dovremmo essere richiamati solo in caso di calamità naturali. Nonostante tutto, il servizio del 115 viene sempre mantenuto. È bene che la gente sappia che noi precari abbiamo le stesse mansioni dei permanenti, con la sola differenza che il nostro rapporto di lavoro dura esattamente 20 giorni. Infatti, possiamo essere utilizzati per un massimo di 160 giorni annui, con periodi da 20 giorni ciascuno, cosa che non ci permette di costruirci un futuro. È arrivato il momento di uscire allo scoperto, di scuotere la mente di chi ci ha usato e chi continua a strumentalizzarci e far conoscere a tutti la verità che è stata sempre oscurata dallo Stato. Il Ministero dell'Interno parla di una carenza di 15.000 unità nei vigili del fuoco. Gli organici sono mai ridotti ai minimi termini e non sono più sufficienti a garantire il soccorso pubblico. Il famoso progetto del ministro Pisanu, Soccorso Italia in 20 minuti, fino ad ora è rimasto solo sulla carta. Ci sono ancora zone del paese che rischiano di essere raggiunte dal soccorso dei vigili del fuoco in tempi che stanno al di sopra di quelli previsti dalle norme di sicurezza. Pertanto noi vigili precari chiediamo ad alta voce la nostra assunzione e chiediamo a voi cittadini un aiuto. Matteo. Buongiorno, sono uno studente di 24 anni e ho una sorella di 22 anni che è celiaca, nel senso che non può mangiare alimenti contenenti il glutine, la maledetta farina. Scrivo a voi poiché è mio auspicio che la celiachia rientri nel novero delle malattie riconosciute dalla legge 104 del 1992. In Italia ci sono tantissime persone affette da questa patologia, che è un vero e proprio trauma. Mia sorella l'ha scoperta in età adolescenziale e non vi dico quanti problemi ha avuto, non potendo uscire di casa per tanto tempo e non potendosi permettere di mangiare, come tutti gli altri, la classica pizza del sabato sera. Silvio. Nessuno si lamenta del prezzo dei biglietti del treno. Anzi, io voglio pagare. Ma spesso è impossibile. Nella mia stazione non si vendono biglietti e nel raggio di 5 chilometri c'è soltanto campagna. Ogni giorno salgo sul treno dicendo che non ho il biglietto e vorrei farlo a bordo. Mi rispondono: signori, se metta là, poi passa al controllore. Ovviamente non passerà nessuno e io viaggio gratis e come me tanti altri. Preferirei tanto pagare e arrivare mezz'ora prima. Federica. Oggi sono triste, perché temo di aver capito cosa servirebbe oggi a noi italiani per superare la crisi economica del nostro paese. Ci servirebbe un po' di Berlusconi, perché no, in fondo ha vinto le elezioni, un po' di Veltroni, un po' di Di Pietro, un po' di Tremonti e un po' di Bersani, tutti assieme. Sono triste perché... non succederà mai. Loro, pur di primeggiare, di sopraffarsi l'uno sull'altro, ci farebbero volentieri andare a picco. Guido. Monza. Gentile direttore, la CGIL ci chiama ad uno sciopero generale per venerdì 12 dicembre, che avrebbe potuto essere evitato se gli esiti delle misure anticrisi scelte dal governo fossero stati diversi. Le ragioni proclamate per lo sciopero sono sacrosante. Ammortizzatori sociali, recupero del fiscal drag, sgravi fiscali, eccetera, e condivisibili. Ma la domanda a cui non trovo risposta è se sia utile lo sciopero. Chi veramente ci guadagna e chi ci rimette con lo sciopero? Il sindacato pensa che non ci sia bisogno di rivisitare i concetti democratici che sono alla base di qualunque dialogo tra controparti e, secondo me, in questo sbaglia. Anche chi lavora da oltre 20 anni oggi si rifà domande che sembrano banali. Domande che qualcuno ha quasi vergogna a fare, perché sembrano meschine o puerili. Una volta potevo anche permettermi, nel dubbio, di stare un giorno a casa. Ma oggi, con gli attuali stipendi risicati, non è più possibile neanche questa considerazione. Dovremmo forse fare un sacrificio non per raggiungere uno scopo particolare, ma soprattutto per rafforzare l'istituzione del sindacato? Sì, io lo farei. Se poi il sindacato lo sentissi vicino nei problemi quotidiani. E cioè se si facesse paladino dell'equità, della pari opportunità, della meritocrazia, della trasparenza, dell'attuazione dei contenuti dei contratti nazionali del lavoro, della legalità e altro ancora. Ma non è così. Nonostante le analisi sulla materia si siano ormai sprecate e siano state diffuse con libri e articoli, sento il sindacato lontano dagli interessi dei lavoratori e non ho visto nessuno sforzo di umiltà nell'ultimo periodo per ascoltarci e riavvicinarsi ai nostri reali bisogni nei luoghi di lavoro. Mi chiedo quanti lavoratori siano disorientati come me e vi chiedo, se possibile, di contribuire per fare una riflessione moderna nel merito. Come valutare lo strumento dello sciopero in sé e come i costi-benefici conseguenti ad una giornata di sciopero? È possibile oppure bisogna affidarsi solamente al proprio sesto senso e ai propri sentimenti? Fiorella. Cara Fiorella, penso anch'io che lo strumento dello sciopero appartenga più al passato che al presente e soprattutto al futuro. Se deve essere non solo lecita e legittima, ma anche spesso giustificata una protesta anche di carattere politico, ci si può e si deve chiedere, secondo me, se il vecchio rito dello sciopero non possa, non debba lasciare il passo ad altre forme di manifestazione del dissenso. E in effetti, bisogna riconoscere che sia a sinistra che a destra le ultime grandi manifestazioni sono state organizzate di sabato, senza interferire con i ritmi di lavoro. E allora perché questa volta si bloccano le fabbriche e gli uffici per protestare non contro i padroni, ma contro il governo? Siamo di fronte a una scelta squisitamente politica. Ma utilizzare lo sciopero a fini politici vuol dire anche caratterizzare il sindacato come un soggetto eminentemente politico. Una scelta ovviamente legittima, perché la politica è una dimensione troppo importante per essere lasciata solo ai politici, ma una scelta che modifica la tradizionale missione del sindacato, che in questa occasione allontana anche quell'unità tra i sindacati che invece potrebbe essere una prospettiva importante per la coesione sociale del paese. Una prospettiva importante in una fase di difficoltà, soprattutto nel mondo del lavoro, come quella che stiamo vivendo. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.